Cari amiche e cari amici, bentrovati, bentrovate, Radio Alma, Brussellando, Maridi ai microfoni. Salutiamo immediatamente Dani M in regia. Buonasera a tutti. La nostra Fiordaliso. Buonasera. E il nostro Giorgetto, che purtroppo non è qui con noi questa sera. Giorgetto, buon courage, come si dice da queste parti, buon lavoro soprattutto. Mi raccomando, non ti dimenticare di noi e ci vediamo tra due settimane, perché martedì è il 1° maggio, quindi festa dei lavoratori e vabbè, quindi... Giorgetto, a tra due settimane. Questa è una puntata molto ricca, è una puntata in cui abbiamo due ospiti. Tra l'altro entrambi si chiamano Marco, con un cognome che inizia con la D, quindi Marco D e Mari D, insomma, meglio di così. Questa sera proprio siamo veramente in ottima compagnia. Come avrete potuto notare, ci sono tanti eventi sponsorizzati sul nostro blog. Volevo ricordare, così come fatto la settimana scorsa, e ci scusiamo ancora per l'inconveniente tecnico che poi abbiamo risolto, per questo evento, quindi, di Vinicio Capossela, il prossimo 13 maggio. Come già annunciato la settimana scorsa, da martedì prossimo potrete telefonarci e dovete rispondere solo ad una domanda molto molto facile e potrete avere la possibilità di avere due biglietti. Quindi insomma, chiamateci, magari iniziate già a segnare il nostro numero, che è 02345 2656. Mari, vogliamo ricordare alcuni dettagli di questo concerto? Te li ricordi tu meglio di me, sì, forse? Sì, il concerto sarà al Teatro San Michel, l'apertura dei cancelli sarà a partire dalle 19:30 per un concerto che dovrebbe iniziare verso le 21 e a Bruxelles il giorno 13 maggio, domenica. Ricordo a tutti gli ascoltatori che i biglietti sono disponibili in prevendita alla Fnac, in altri su internet e alla Piora Libri, e soprattutto che tutte le informazioni si possono trovare sul blog di Brussellando, che è radioalma.eu/brussellando. Prima di passare ai nostri ospiti, allora diciamo brevemente, insomma, due eventi della nostra agenda culturale. Itinerario Brusselicious. Ne avevamo già parlato e questa è una splendida iniziativa che si ripete poi a plusieurs reprises, insomma più volte durante l'anno, e questa volta ci sarà il prossimo 29 aprile, quindi domenica dalle 2, praticamente è una passeggiata, possiamo dire, gourmand a Bruxelles, donde quindi questo Brusselicious che tanto ricorda il nostro Brussellando, e si potranno degustare tanti buoni piatti, diciamo, tipicamente belgi, e tant'è che è stata anche riconosciuta come una delle attività, delle migliori attività che sono state fatte qui a Bruxelles proprio in ambito di gastronomia. Noi italiani ovviamente non ci esprimiamo, però vi posso dire che noi ci siamo stati, io e Daniele, una volta proprio l'anno scorso, e effettivamente l'iniziativa è lodevole. Per quanti volessero saperne di più, itinerer.be, il rendezvous invece devant le bip alla Rue Royale, quindi molto centrale, e invece per quanti volessero avere più informazione, quindi 0496 388594. Invece, sempre in tema di urbanismo, mi pare l'avevamo già accennato la settimana scorsa, 100 anni di urbanismo a Bruxelles. C'è questa mostra straordinaria che è un viaggio in immagini attraverso quelle che sono quello che è l'archivio di architettura moderna qui a Bruxelles. Potrete veramente ammirare tutti quelli che sono stati i cambiamenti avvenuti in città, già a partire dal 1695, per quelli che erano stati i cambiamenti avvenuti grazie a Luigi XIV, il famoso Re Sole, e tutto ciò che è accaduto poi via via nei secoli. Quindi davvero una carrellata straordinaria di immagini che vi mostreranno sicuramente una Bruxelles inedita. Per quanti vorressero saperne di più, www.aam.be, e adresse, quindi la Fondazione per l'Architettura, 55 Rue de l'Ermitage, 1050 Bruxelles. Orari di apertura sia sabato che domenica dalle 12 alle 18. La mostra è stata inaugurata lo scorso 18 aprile e seguirà fino al prossimo 17 maggio. E infine, sempre domenica, quindi per gli amanti dello sport, io per fortuna sabato 28 concludo le mie attività sportive, ci sarà la 15 km della Volvesa Lambert. Ormai queste maratone si sono diffuse un po' dappertutto, insomma c'è la 20 km, pure il prossimo 27, quindi voglio dire, insomma, sono tante queste corse che evidentemente tanto piacciono ai maratoneti. Fate attenzione soprattutto a quelli che sono, come si chiamano, Dani M, i problemi dei maratoneti, ti ricordi? La sindrome dei maratoneti. Ah, ecco, la sindrome dei maratoneti, che colpisce il ginocchio. e anche tante persone che io conosco, insomma, meglio non far nomi perché altrimenti mi viene la tristezza. Questa maratona avverrà invece allo stadio comunale Fanlon, che ha la Volue Saint-Lambert, quindi 02776 8258. Per quanti volessero partecipare, immagino che ormai le iscrizioni siano chiuse, per quanti volessero ammirare invece il 29 aprile dalle ore 2. Mari, sì, per tutti coloro che non volessero cadere nella sindrome del maratoneta, consigliamo di fare la maratona gourmand di Bruxelles. Assolutamente sì, che però il giorno prima, no sempre, no, hai ragione, il 29, sì, tutti e due il 29, hai ragione, sì, quindi preferirei mangiare questa volta e non correre. Bene, grazie Daniel. Io stasera sono orfana, non avendo George mi sento un po' così. Però passiamo al nostro primo ospite, che è qui in studio, che mi è stato presentato da un'amica, quindi saluto anche Giuliana Torta, che non è qui a Bruxelles perché è in missione, e questa sera è qui con noi Marco Di Martino. Buonasera a tutti. Marco, benvenuto. Grazie. Bruxellando, come sai, si occupa di promuovere eventi e noi siamo particolarmente contenti di promuovere soprattutto eventi di italiani che sono qui a Bruxelles, che vivono e lavorano a Bruxelles e che, a parte il lavoro, scoprono poi tante passioni. La tua passione principale è quella del teatro. Esatto. Raccontaci un po' come nasce questa tua particolare passione. Ma diciamo che io ho sempre avuto questa mania un po' di mostrarmi, di farmi vedere, e nel lontano 89, ero ancora in Italia allora, un amico che recitava in una compagnia filodrammatica mi disse che cercavano attori, e così provai, la cosa funzionò e cominciai a recitare. La compagnia filodrammatica Il Pioppo, recitavamo nel paesino del sud Milano. Recentemente il Pioppo ha fatto 30 anni, ne ha festeggiati 30 anni di attività. Ho continuato fino al 96 in Italia, poi mi sono trasferito qua a Bruxelles, dove ho recitato in altre due compagnie qui a Bruxelles, sempre rigorosamente in italiano. E di recente ho deciso di creare la mia propria compagnia, che si chiama L'Arte della Commedia. E quindi tu hai più esperienze sia in Italia sia a Bruxelles. Secondo te quanto la dimensione, diciamo, di expat influenza il modo di recitare in lingua italiana anche all'estero? Se tu ne riveli alcune oppure no, cioè magari è più facile adattare i discorsi perché ci sono persone magari straniere che partecipano allo spettacolo, oppure questo non ha nessuna rilevanza? Ma diciamo che la mia esperienza come attore a Bruxelles non mi pare di notare una grande differenza nel modo di recitare. Uh-huh. Perché in effetti, per esempio, abbiamo fatto diverse commedie di Edoardo. Quindi diciamo che un expat, una persona che non è italiana, anche se parla italiano, può essere una cosa abbastanza estranea alla sua cultura. Ah, bene, pensavo invece, non so perché, che anche nei testi ci fosse un po' un'agevolazione linguistica, magari per semplificare anche la lingua italiana, che malgrado sia una lingua bella e soprattutto molto parlata qui a Bruxelles, magari può essere anche rivisitata. Raccontaci un po', quindi, questa tua commedia, che immagino sia la tua prima commedia come regista? Allora, no, io ho fatto già la regia in Italia e ho scritto altre commedie. Però questa è la prima volta, dobbiamo confessarlo in radio, che mi presento allo stesso tempo come autore, regista e produttore. Eh beh, quindi magari è proprio un percorso, diciamo, di maturità che porta a compimento queste tue diverse anime. Speriamo. Allora, il titolo della tua, posso chiamarla commedia? Sì, assolutamente, è una commedia. È 13 in scena, da meridionale il 13. Insomma, mi viene da chiederti perché proprio 13 in scena. L'idea mi venne quest'estate mentre stavo scrivendo un'altra commedia, perché a un certo punto mi accorsi che era ancora, diciamo, a livello canovaccio, per cui non era ancora definitiva, c'erano appunto 13 personaggi. E riflettendo su questo fatto mi viene in mente anche un'altra commedia che recitammo in Italia con il Pioppo, che è la 13 a tavola, è un vaudeville abbastanza conosciuto di Sauvageon. Uh-huh. E quindi mi venne l'idea di, perché no, potrebbe essere simpatico di scrivere una commedia prendendo come spunto quest'idea della superstizione di essere 13. Uh-huh. E adattarla però al mondo del teatro, per cui è venuta fuori questa commedia 13 in scena. dove, adesso non voglio anticipare troppo, però c'è un problema che, di superstizione e di 13 personaggi, eccetera, eccetera. Magari possiamo solo accennare qualche personaggio. Ma sì, dunque abbiamo, evidentemente c'è un regista che deve mettere appunto in scena una commedia, e poi abbiamo un produttore, diciamo che parla un po' dei personaggi tipici del mondo del teatro, il regista, il produttore, abbiamo la prima donna, abbiamo l'attore giovane, e poi ho aggiunto dei personaggi che sono invece un po' fuori dal canone tradizionale. Lì non svelo nulla perché lo si può leggere nella sinossi della locandina. Esatto. Abbiamo una turista che si smarrisce, un gangster che viene da Marsiglia. E anche lì la scelta ovviamente del tutto casuale. E c'è un aneddoto che si è verificato durante le prove che magari vuoi condividere con i nostri amici ascoltatori? Allora, dunque, devo premettere che questa commedia l'ho scritta sugli interpreti, perché conoscevo già le persone, per cui ho scritto, è il personaggio, quindi è stato calato, non posso dire sulla persona, ma su come io vedo le persone. E ho cercato anche di dare un certo spazio alla loro interpretazione. E quindi cosa succede? C'è uno dei personaggi, quando entra in scena, deve cantare delle canzoni in romanesco. E sceglie lei le canzoni che vuole cantare. Quindi il risultato è che a tutt'oggi io non so quale canzone deciderà di cantare la sera dello spettacolo. Quindi sarà una sorpresa per tutti. Una sorpresa per tutti. Beh, questa la trovo insomma un'iniziativa effettivamente lodevole. È un po' il teatro pirandelliano, no? Il teatro del teatro. Beh sì, in un certo senso sì, come dice la prima frase della sinossi, il teatro che si recita addosso. Esatto, è vero, quindi un collegamento tutto sommato c'era. E toglimi ancora un'altra curiosità. Prima dicevi che hai praticamente scritto insomma la sceneggiatura della commedia, l'hai soprattutto scritta in base ai tuoi personaggi. E se ci fosse un attore teatrale e non a cui ti sei ispirato negli anni, pensi a qualcuno in particolare? Ma sì, ho degli idoli del teatro, della commedia all'italiana, il grandissimo Totò, senz'altro, ma anche Alberto Sordi o Paolo Villaggio. Ecco, diciamo che nelle mie commedie qua e là possiamo ritrovare degli accenni a questi mostri sacri. Beh, questo mi sembra estremamente interessante. Abbiamo poco tempo, perché sai che il tempo, soprattutto in radio, è oltremodo tiranno. Ma c'è una frase breve con la quale convincere chi è all'ascolto a partecipare il prossimo 4 e 5 maggio, o per entrambe le date, o una sola, insomma, dovesse piacere, e ad assistere a 13 in scena? Allora, proviamo questa commedia da settembre, due volte la settimana. E ancora oggi ridiamo alle battute, alle gag. Fate un po' voi. Questo mi sembra essere veramente la migliore il migliore dei suggerimenti. C'è un saluto invece che vorresti indirizzare dai nostri microfoni? Da 16 anni che sono a Bruxelles, è la prima volta che sono intervistato in italiano e sono contento che siate voi. E invece agli ascoltatori posso dire, o meglio, non posso dire, spero di vedervi a teatro, perché sarò dietro le quinte e non li vedrò, però spero che saranno loro a vedere noi. Ah, noi veramente te lo auguriamo, quindi un grosso grosso in bocca al lupo a Marco. Grazie. Vi ricordiamo che 13 in scena va praticamente in scena il prossimo 4 maggio, che è un venerdì, e poi il 5 maggio, che è un sabato, presso il Centro Culturale di Malbec a Rue du Cornet 97, 1040 Bruxelles, quindi Etterbeek. Tra l'altro è a pochi passi dal metro Schumann, quindi veramente una location centralissima, e noi di Bruxellando ci saremo, quindi invitiamo tutti coloro i quali sono all'ascolto di partecipare. Marco, noi ti ringraziamo e dimmi. Per chi volesse avere delle informazioni, c'è il sito della nostra compagnia, l'arte della commedia, tutto attaccato.eu. Ah, quindi insomma anche questa è una piacevole novità, essendo qui a Bruxelles. Un grosso in bocca al lupo. Grazie ancora. Ed eccoci nuovamente qui, cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, e siamo sempre qui in diretta da Bussellando, Radio Alma 101.9. Di tanto in tanto ricordo che siamo la frequenza mediterranea di Bruxelles. E questa sera, come annunciato, abbiamo un altro ospite che si chiama anche Marco, Marco D, anche lui, quindi dicevamo che questa volta sono veramente in buona compagnia. Marco Di Ruzza è diplomatico, quindi insomma ritorna veramente con estremo piacere la penna del diplomatico. Marco è un, tra l'altro è, ha una penna molto proficua, ha scritto tante cose, tra l'altro tutte diverse tra di loro, però questa sera noi dialogheremo con lui a proposito del diritto delle minoranze nella nuova Europa. È un tema appassionante, è un tema soprattutto attuale. Sapete che il Trattato di Lisbona è entrato in vigore recentemente e che sono tanti i cambiamenti che sono avvenuti per tutta una serie di questioni, tra cui anche quelle delle minoranze. E Marco è stato effettivamente così bravo da, da scrivere immediatamente, quindi parliamo di un libro che è stato pubblicato circa un anno fa, proprio di questa tematica. Una tematica che io trovo soprattutto interessante anche nella nostra vita qui a Bruxelles, perché come tanti sapranno ci sono dispute soprattutto linguistiche che di tanto in tanto ci fanno ben pensare su tutta un'altra serie di tematiche. Quindi l'intervento di Marco ci vuole proprio chiarire una serie di elementi tra cui le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, e poi ci spiegherà come mai ha deciso di trattare di queste delle minoranze in Europa. E io ho scoperto effettivamente tante cose che non sapevo, anche perché questo suo libro dedica molto spazio anche alla funzione di tutela austriaca verso l'Alto Adige, la cosiddetta Schutzfunktion, di cui io ignoravo effettivamente l'esistenza. Quindi effettivamente ho potuto imparare tante cose che non sapevo, e soprattutto mettere veramente in prospettiva alcune proprio delle conseguenze di questo Trattato di Lisbona. Non sarò io ad anticipare queste tematiche, perché sono tematiche estremamente delicate e anche di difficile, diciamo, comprensione. Marco sicuramente è nella miglior posizione per potervi raccontare proprio tutte queste informazioni di cui vi sto parlando. Volevo ricordare inoltre che Marco è coautore insieme ad altri due autori, e che non saranno qui con noi al telefono, ma che comunque vogliamo salutare, perché insomma comunque è un'opera, un lavoro collettivo che quindi va riconosciuto per tutti gli autori. Francesco Sorbino e Lorenzo Trapassi sono gli altri due autori, a cui vanno i nostri ovviamente migliori saluti e soprattutto ancora i migliori complimenti per questo saggio, che è estremamente interessante. Vi ricordo inoltre che la casa editrice è la casa Rubertino, di cui abbiamo già spesso parlato, quindi insomma una casa editrice molto vivace. E vi ricordo inoltre che il libro reca la prefazione di Franco Frattini, che è stato ministro degli esteri nonché commissario qui a Bruxelles. Quindi insomma il libro di Marco si presenta sotto i migliori auspici. Marco l'ho sentito proprio recentemente, quindi mi sembrava entusiasta di partecipare alla nostra trasmissione. Tra l'altro effettivamente abbiamo molto parlato e dialogato proprio di queste tematiche, pure per sensibilizzare la sottoscritta a questi temi così così effettivamente minoritari, mi scuso della parola, perché effettivamente mi rendo conto che sono delle tematiche che non riguardano poi tutti quanti, ma che poi hanno comunque dei risvolti estremamente interessanti anche per le politiche nazionali. E l'Italia, tra l'altro, è uno di quei paesi in cui questo problema è particolarmente importante, proprio per quello che riguarda l'autonomia atesina. Quindi Marco fra poco sarà qui con noi. Intanto vedo Daniele dalla regia pronto con un suggerimento musicale. Cari amiche e cari amici, eccoci qui dopo questo suggerimento musicale. Dovrebbe essere con noi anche Marco. Consigliere! Ah beh, allora, siccome di tanto in tanto alla radio capita che quando c'è un vetro che separa la parte tecnica dalla parte non tecnica, non essendo noi tecnici, ecco, qui cerco di fare un po' Giorgio Lola della situazione. Ma perché questa sera non ci sei, George? Quando ci serve George non c'è mai. Comunque, siccome capita che di tanto in tanto c'è qualche cosa che non va, bisogna inventarsi di tutto, di più. Quindi io volevo ringraziare tutti coloro i quali continuano a visitare il nostro blog. Come sapete, noi abbiamo un nuovo blog già da qualche tempo e devo dire che i risultati sono effettivamente notevoli. Quindi volevo ringraziare tutti coloro i quali vanno sul nostro sito, ascoltano le puntate, sono tantissimi e sono migliorati tantissimo. Quindi ringraziamo anche la nostra radio, la nostra redazione, la quale ci ha permesso di avere questo strumento sicuramente migliorato e che noi tutti cerchiamo di mantenere aggiornato il più possibile. Ovviamente nelle ultime due settimane, soprattutto durante la pausa pasquale, c'è stato meno movimento, questo bisogna riconoscerlo, però poi tutto sommato ora ci sono tutte le ultime novità. Non ricordo, forse Dani M lì mi potrebbe aiutare, magari ce lo dirà più tardi, se l'ultima puntata è stata già uploadata. Però questo me lo faccio dire da Dani M più tardi. Inoltre volevo segnalarvi che il prossimo 8 maggio avremo un ospite di particolare interesse, Paolo Nelli, il quale è autore di un romanzo straordinario, rivive un po' il mito americano in chiave assolutamente moderna, con una lettura semiotica assolutamente interessante, il cui titolo è Golden Boot, lo stivale d'oro. E noi lo intervisteremo non solo qui a Radio Alma, ma lo intervisteremo anche alla libreria Piola. Quindi insomma siamo veramente contenti. Paolo verrà direttamente da Londra, dove vive e insegna presso una delle università londinesi, e quindi saremo ben felici di questo duplice appuntamento, prima in trasferta e poi direttamente dai nostri microfoni e dai nostri studi. Il 15 maggio anche ci sarà un evento in esterna, e quindi insomma sono tante le novità di questa Brussellando. Consigliere! Buonasera a lei e agli amici in ascolto. Oh, benvenuto a Radio Alma a Brussellando. Prima della pausa musicale abbiamo introdotto brevemente il suo saggio Il diritto delle minoranze nella nuova Europa. Quando nasce la sua passione per la scrittura? Ma in verità scrivere è una passione che ho sempre coltivato, devo dire, ed è per questo che mi onoro di far parte di questa categoria di colleghi diplomatici scrittori, la cui filosofia è poter offrire, pur nei pochi spazi di tempo offerti da una carriera molto impegnativa come quella diplomatica, un proprio contributo pubblicistico, magari proprio su tematiche che sono state al centro di esperienze di servizio. E in questo senso ho avuto appunto il piacere di pubblicare tre libri per l'editore Rubettino, uno scritto con i colleghi Lorenzo Trapassi e Francesco Sordini, che lei ha avuto la cortesia di ricordare, dedicato appunto alle novità del Trattato di Lisbona in materia di tutela delle minoranze, con una parte speciale che analizza il modello dell'autonomia altoatesina nel nuovo quadro giuridico comunitario, modello al quale ho dedicato il mio primo saggio, ma sotto una diversa angolatura, quella dei rapporti diplomatici tra l'Italia e l'Austria. Quindi parlava anche del Trattato di Lisbona, potrebbe indicarci proprio sommariamente per i nostri amici ascoltatori le principali novità? Beh certo, il Trattato di Lisbona ha realizzato un complessivo rafforzamento delle istituzioni e delle politiche dell'Unione. Le novità introdotte sono molteplici, ne accennerò ad alcune cominciando dagli aspetti generali. Il Trattato accorda innanzitutto personalità giuridica all'Unione Europea, cosa che contribuirà a far considerare l'Unione quale soggetto unitario di diritto internazionale nei rapporti con attori terzi. Inoltre il termine comunità viene sostituito con quello di Unione, proprio per unificare giuridicamente i tre pilastri sorti con il Trattato di Maastricht. Il Trattato realizza poi un complessivo riordino del diritto primario comunitario, chiarisce con più efficacia la ripartizione di competenze tra l'Unione e gli Stati membri, semplifica le tipologie degli atti e crea una vera gerarchia delle norme. sotto il profilo delle istituzioni segnalo che il Consiglio europeo viene elevato a tutti gli effetti ad istituzione dell'Unione e la sua presidenza diviene elettiva. Per quanto riguarda la Commissione, il Presidente viene ora eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo anziché degli Stati membri. Quanto allo stesso Parlamento europeo, ne vengono rafforzati i poteri, soprattutto attraverso la generalizzazione della procedura legislativa ordinaria che assicura il pieno coinvolgimento del Parlamento in molti ambiti nei quali svolgeva un ruolo solo marginale. Altra novità di rilievo che terrei a sottolineare è l'istituzione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché vicepresidente della Commissione. È una nuova figura istituzionale alla quale viene affidata la presidenza del Consiglio Affari Esteri per assicurare la coerenza di tutti gli aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Inoltre l'alto rappresentante viene assistito da un servizio europeo per l'azione esterna composto da funzionari provenienti dal segretariato del Consiglio, dalla Commissione e dai servizi diplomatici nazionali, quindi è nato un vero e proprio servizio diplomatico dell'Unione europea. Per quanto concerne i meccanismi di voto, viene introdotta come regola base dell'adozione degli atti del Consiglio la maggioranza qualificata, il controllo democratico viene rafforzato anche attraverso il conferimento di maggiori poteri sia al Parlamento europeo che ai Parlamenti nazionali. E passando invece velocemente infine alle politiche, nel settore spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la gestione delle frontiere viene ora considerato un problema di interesse comune da gestire in base ai principi di solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità. Viene inoltre significativamente rafforzata la cooperazione giudiziaria in materia penale. Sul fronte della governance economica viene accresciuto il ruolo della Commissione e rafforzato l'Eurogruppo, cioè il nucleo dei paesi che hanno adottato la moneta unica, viene robustita la politica energetica dell'Unione e così via. Insomma, un ampio ventaglio di linee di riforma completate dalle novità in materia di tutela delle minoranze, alle quali è dedicato il nostro studio, dato che per la prima volta questo settore entra nell'impalcatura normativa dell'Unione Europea. E quindi come mai trattare un tema così delicato come quello delle minoranze in Europa? Ma il saggio in particolare analizza il nuovo quadro giuridico comunitario che il Trattato di Lisbona delinea in materia di protezione delle minoranze. Abbiamo deciso di concentrare la nostra analisi su questo tema proprio perché è una novità non conosciuta al grande pubblico o comunque della quale rispetto ad altri principi del Trattato di Lisbona non è stata forse pienamente colta, perlomeno a nostro giudizio, la straordinaria portata innovativa. Per la prima volta infatti nella storia dell'integrazione europea il principio del rispetto e della tutela delle minoranze è stato riconosciuto nel novero dei valori fondanti dell'Unione. Nella prefazione al libro lo stesso Franco Frattini, già nostro ministro degli esteri, vicepresidente della Commissione europea, che invita a valutare l'importanza di una tale evoluzione che si colloca a diretto sostegno delle autonomie locali, in aggiunta a quanto previsto dalle legislazioni nazionali o da accordi intergovernativi, come l'accordo De Gasperi-Gruber per l'autonomia altoatesina. È un riconoscimento significativo che conferisce ulteriore concretezza, direi, al sogno europeo di Alcide De Gasperi, fondato proprio, come è noto, sul ruolo delle autonomie locali, una sensibilità che De Gasperi aveva maturato già nei suoi anni giovanili, quando era suddito della monarchia plurinazionale asburgica, ma al contempo un trentino di accesi sentimenti italiani e già allora una prima embrionale idea d'Europa, basata su una tutela inclusiva e non separatista delle varie collettività nazionali, in un'ottica dunque di reciproco sostegno ed arricchimento, aveva cominciato ad animare i suoi sentimenti. L'Europa di Lisbona da questo punto di vista fa sicuramente un passo importante verso la visione De Gasperiana. Prima lei parlava proprio dell'accordo De Gasperi-Gruber, ne potrebbe riassumere magari i principi? Beh, certamente è l'accordo stipulato dall'Italia e dall'Austria il 5 settembre del 1946 in cui trovano fondamento i principi cardine del sistema di autonomia dell'Alto Adige. Nel concitato clima diplomatico del dopoguerra i due governi al margine della conferenza di Parigi raggiunsero un'intesa sul trattamento della popolazione di lingua tedesca del Tirolo meridionale. Il trattato è considerato frutto della raffinata cultura di De Gasperi in materia di autonomie, ma anche della sua ferma determinazione di ministro degli esteri di portare a Parigi un segnale inequivocabile dell'impegno italiano a risolvere la questione altoatesina in un momento in cui intorno al nostro paese era diffuso un giudizio di inaffidabilità. L'accordo di Kasper Gruber è stato concepito per favorire l'inserimento della popolazione germanofona nel contesto amministrativo e socio-economico del territorio della provincia di Bolzano e di vicini comuni bilingui della provincia di Trento, garantendo quindi al gruppo di lingua tedesca la completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana nel quadro della costituenda regione autonoma. L'articolo 2 in particolare ha previsto per le popolazioni della provincia di Bolzano l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo. Non è dunque solo un accordo di protezione di minoranze, ma un avanzato strumento di sviluppo autonomistico, pur condizionato dalle vicende storiche del territorio nei rapporti italo-austriaci. Ne è derivato infatti un modello funzionale soprattutto ad esigenze di convivenza, diciamo così. Infatti, in base allo statuto del Trentino Alto Adige e Sud Tirol, è il principio della proporzionale etnica a regolare lo speciale regime giuridico che nella provincia di Bolzano disciplina l'ammissione a pubblici impieghi o il godimento di particolari diritti come l'assegnazione di alloggi popolari, proprio in modo da garantirne un'equilibrata allocazione tra i tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in base alla loro consistenza periodicamente censita attraverso le cosiddette dichiarazioni di appartenenza. Del modello di autonomia dell'Alto Adige, voglio aggiungere, è stato ampiamente riconosciuto il valore esemplare, specie di fronte agli eccidi etnici che hanno insanguinato porzioni d'Europa. Ad esempio la dichiarazione congiunta adottata a Roma nel settembre 2002 dai due capi di Stato d'Italia ed Austria, Carlo Azeglio Ciampi e Thomas Klestil, nel decennale della conclusione della vertenza, ha definito il nuovo quadro dell'autonomia altoatesina dopo l'attuazione del pacchetto Alto Adige una storica opportunità di arricchimento tra i due paesi e il nuovo statuto un riuscito modello di tutela delle minoranze e di serena coabitazione fra gruppi linguistici diversi, dunque un esempio per l'intera comunità internazionale. In verità questo modello è stato frutto di un cammino lungo e difficile dopo l'entrata in vigore dell'accordo di Kasper Gruber, infatti nel 1960 da parte austriaca è stata fatta denuncia alle Nazioni Unite di un'incompleta applicazione da parte italiana del trattato, tesi fermamente respinta dal governo italiano che ha sempre sostenuto di aver assicurato a tutte le sue disposizioni piena attuazione già attraverso il primo statuto di autonomia della regione Trentino Alto Adige del 1948 e questo ha aperto, come noto, una trentennale vertenza tra Roma e Vienna. Le condizioni favorevoli al superamento della controversia hanno preso forma grazie alle ulteriori misure ampliative dell'autonomia del territorio varate dall'Italia nell'ambito del cosiddetto pacchetto Alto Adige del 1969, progressivamente attuate nel nostro ordinamento sino al 1992. Questi provvedimenti hanno costituito la base del secondo statuto di autonomia della regione Trentino Alto Adige e Sud Tirol del 1972 e del rafforzato quadro istituzionale della provincia autonoma di Bolzano. L'effetto delle misure del pacchetto è stato in sostanza quello di determinare un ampio trasferimento di competenze alle province autonome in materie precedentemente spettanti alla regione autonoma o prima ancora riservate allo Stato. Inoltre è stata notevolmente incrementata l'autonomia finanziaria della provincia autonoma di Bolzano, che è in grado di trattenere percentuali molto alte delle entrate tributarie erariali. Di tali provvedimenti, peraltro, il governo italiano ha sempre tenuto a puntualizzare il carattere giuridico eminentemente interno e non attuativo di obblighi di diritto internazionale, respingendo così ogni tesi di aggancio internazionale del pacchetto, tesi spesso sostenuta dalla parte austriaca che viceversa interpreta queste misure come mezzi di attuazione del trattato di Kasper Gruber, quasi saldando il pacchetto con l'accordo di Parigi. Di fatto il consolidamento dell'autonomia non è avvenuto attraverso un ulteriore accordo internazionale interpretativo sostitutivo dell'accordo di Kasper Gruber, ma solo con strumenti di diritto interno italiano. Consigliere, la ringrazio veramente di questa sua puntuale narrazione anche storica di matematica di cui confesso aver appreso proprio leggendo il suo saggio. Per tornare quindi alle novità del Trattato di Lisbona, quali sono quindi i principali cambiamenti avvenuti facendo seguito proprio all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona? Ma come dicevo il trattato di riforma segna uno sviluppo eccezionale, proprio perché fornisce per la prima volta in sede comunitaria una diretta base giuridica al riconoscimento delle minoranze, o meglio dei diritti degli individui appartenenti a minoranze. il cui rispetto viene a tutti gli effetti annoverato tra i valori fondanti dell'Unione. Questo indirizzo è rafforzato poi dal fatto che con il Trattato di Lisbona diventa vincolante la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000, ma inizialmente priva di carattere di obbligatorietà giuridica. È un traguardo da sottolineare proprio se si considera che le problematiche minoritarie hanno avuto per lungo tempo una posizione periferica nella costruzione comunitaria. E proprio in questo affonda le sue radici il giudizio secondo cui l'integrazione europea avrebbe storicamente evidenziato un certo distacco nei confronti delle minoranze, una percezione che è stata alla base della diffidenza con cui alcuni gruppi minoritari in effetti hanno guardato all'esperienza delle comunità europee. Come spiegare questo fenomeno? Non certo perché il processo di integrazione europea intendesse sottovalutare i problemi delle minoranze in Europa, evidentemente vi sono altre ragioni sulle quali ci siamo interrogati nel saggio. In primo luogo occorre ricordare che altri attori a livello regionale operano da tempo con riconosciuta autorevolezza nel campo della protezione dei diritti umani e delle minoranze, quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, già CSCE, l'Iniziativa Centro Europea. Questo ha fatto sì che il cammino dell'integrazione europea nella sua progressiva espansione funzionalista o per settori non fosse portato ad includere anche le questioni identitarie tra le sue direttrici di marcia. Tale proposito, la Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali, firmata a Strasburgo nel 1995 insieme al Consiglio d'Europa, rappresenta il primo trattato multilaterale vincolante in materia con un meccanismo di attuazione e monitoraggio permanente. Anche la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, conclusa in tale ambito nel 1950, offre strumenti di tutela per le minoranze, anche se per via indiretta. Da parte sua l'OSCE ha elaborato diversi atti sulle problematiche minoritarie, istituendo anche un alto commissario all'AIA come organo di sorveglianza e prevenzione. Le raccomandazioni dell'OSCE, anche se non rivestono carattere cogente, trattandosi di un meccanismo politico-diplomatico, hanno svolto una rilevante funzione in una fase storica in cui i conflitti nella ex Jugoslavia e nell'ex Unione Sovietica hanno portato drammaticamente in primo piano la questione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose in Europa. Anche l'INCE, che è un'iniziativa multilaterale più che un'organizzazione in senso stretto, ha fornito un concreto apporto, specie con la Convenzione per la tutela dei diritti delle minoranze firmata a Torino nel 1994. Ma poi c'è un'ulteriore e prevalente motivazione alla base dello scarso feeling iniziale tra il processo di integrazione europea e la problematica minoritaria, cioè il fatto che l'obiettivo fondamentale dell'Europa comunitaria è stato per lungo tempo la costruzione del mercato unico. Questo percorso non poteva che presupporre tendenze egalitarie e diritti indifferenziati e quindi uno sforzo da parte degli Stati membri all'armonizzazione delle rispettive legislazioni. Mentre dunque nell'ambito di quelle organizzazioni si è affermata la necessità di una tutela positiva e di una serie di standard per la protezione delle minoranze, le attività dell'Unione sono state modeste, proprio perché evidentemente potevano introdurre fattori di ostacolo o di rallentamento nel processo di integrazione dei mercati o distorsioni nel libero mercato del lavoro. Tuttavia, la necessità di contemperare la tutela delle minoranze con le regole uniformi del mercato unico è andata progressivamente affermandosi, anche grazie all'impulso della giurisprudenza comunitaria. Storica, ad esempio, è stata la sentenza Bichel-France del 1998, con cui la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha riconosciuto che le esigenze di tutela delle minoranze possono giustificare adeguate e proporzionali limitazioni delle libertà fondamentali. Poi, quale elemento di rafforzamento di un tale indirizzo, si deve registrare l'inclusione del principio della tutela efficace delle minoranze tra i criteri di Copenaghen, che comprendono le direttive di riferimento per i paesi candidati all'adesione all'Unione Europea. Parallelamente, lo sviluppo delle autonomie locali in ambito UE ha goduto di benefici indiretti attraverso la politica regionale, ad esempio i programmi Interreg finanziano iniziative di cooperazione trasfrontaliera fra enti territoriali di diversi paesi, una cooperazione che rappresenta un motore dell'integrazione europea, ma anche un terreno ottimale per lo sviluppo delle autonomie locali. Lo stesso Comitato delle Regioni ha visto notevolmente ampliarsi il suo ruolo e le sue competenze a partire dal Trattato di Amsterdam. Quindi a coronamento di una costante evoluzione, con il Trattato di Lisbona la tutela delle minoranze ha conquistato uno spazio proprio tra i valori portanti del progetto europeo. Orientamento inoltre corroborato dalla prevista adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, a cui accennavo precedentemente. Quindi il nuovo quadro sembra ora idoneo a valorizzare i cittadini appartenenti a minoranze nazionali quale strumento di facilitazione e non di ostacolo all'integrazione, proprio grazie alla loro funzione ponte fra diverse nazioni. Da questo punto di vista il ruolo delle popolazioni dell'Alto Adige è molto importante. Direi che da questa evoluzione possiamo trarre soprattutto due insegnamenti. Uno è che l'Unione Europea, se veramente vuole, come tutti siamo convinti, proiettarsi verso una vera comunità politica di valori e non solo una grande comunità di interessi economici, non può permettersi di far rimanere fuori alcun settore della vita associata, altrimenti mi parrebbe un progetto limitato. In questo modo il settore della protezione delle minoranze, centimetro dopo centimetro, è riuscito ad entrare tra i valori cardine della costruzione europea. Secondo principio è che alla luce di tale evoluzione diventa sempre più necessario trovare una linea di armonizzazione tra le regole del mercato unico e la protezione degli individui appartenenti a minoranze. Da una parte cioè la tutela di specifiche situazioni identitarie, e qui l'esempio dei gruppi alloglotti dell'Alto Adige è molto calzante, non può essere sacrificata ai meccanismi omogeneizzanti del mercato unico. Ma dall'altra la protezione di cittadini europei minoritari non può spingersi al punto tale da determinare palesi discriminazioni contro i cittadini europei maggioritari. Quindi è in questo senso che diventa fondamentale una dialettica tra l'esecutivo comunitario e i governi nazionali, ispirata a criteri di ragionevolezza e senso di responsabilità, per individuare questa rotta di equilibrio. Non è contrario alle regole europee il fatto di prevedere regimi particolari per tutelare specifiche situazioni identitarie, ma lo diventa se tale disciplina risulta ostensibilmente anticoncorrenziale verso gli altri cittadini europei, chiaramente. Beh, effettivamente è proprio così. Il tempo, ahimè, in radio, consigliere, è veramente tiranno. Magari posso brevemente, potrebbe solo brevemente accennarci che cosa cambia quindi per i cittadini minoritari europei? Beh sì, le novità sono molto importanti, perché sono certamente destinate a modificare in senso ampliativo gli strumenti di tutela di cui i cittadini minoritari possono godere nell'ambito dell'Unione Europea. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, infatti, i cittadini comunitari vedono realizzata una complessiva estensione della loro legittimazione processuale per il tramite del potere di impugnazione di atti comunitari dinanzi alla Corte di Giustizia. In effetti, mentre prima un individuo poteva agire in giudizio solo nel caso in cui l'atto in questione lo riguardasse direttamente ed individualmente, ora, ai sensi dell'articolo 263 del nuovo Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, qualsiasi persona fisica o giuridica potrà proporre un ricorso, oltre che contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente ed individualmente, anche contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente. Sembra una sfumatura puramente terminologica, non lo è. Infatti ciò aumenta sensibilmente la facoltà di ricorso di un cittadino appartenente ad una minoranza qualora dovesse veder leso il proprio diritto alla tutela derivante dal suo status, giungendo a poter impugnare persino un regolamento, che atto normativo generale ed astratto, che si palesasse lesivo delle prerogative delle minoranze. Intendiamoci, queste nuove disposizioni non attribuiscono coerentemente con il diritto internazionale generale prerogative alle minoranze intese come gruppi. È l'individuo che fa parte della minoranza e non la minoranza in quanto tale il beneficiario diretto delle misure di salvaguardia. Cioè, l'obiettivo è favorire l'integrazione del gruppo minoritario, ma non forme di contrapposizione che rischierebbero di minare l'integrità degli Stati. Fatta questa precisazione, è innegabile che il nuovo trattato costituisca una formidabile innovazione, mettendo a disposizione delle minoranze, o meglio, come dicevo, degli individui appartenenti ad una minoranza linguistica, etnica, nazionale e religiosa, una serie di strumenti supplementari rispetto alla generale tutela consentita dalle Costituzioni dei vari Stati membri. La salvaguardia delle minoranze è dunque ora a tutti gli effetti presa in considerazione anche a livello europeo. Nulla vieta ad un individuo che consideri leso un suo diritto correlato all'appartenenza ad una minoranza di adire la Corte di Giustizia per vedere il diritto riconosciuto o domandare il ripristino dello status quo da parte dell'autorità del suo paese. Altra considerazione molto importante è che comunque la vigenza giuridica di un accordo come il De Gasperi-Gruber o di intese analoghe non viene meno con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Attenzione, l'Unione Europea non si è infatti posta l'obiettivo di standardizzare il livello e le modalità di protezione delle minoranze nei Paesi membri sostituendosi alle scelte sovrane dei governi o ad eventuali intese internazionali come l'accordo De Gasperi-Gruber. Anche nella nuova Europa quindi tali strumenti di salvaguardia possono mantenere inalterata la loro efficacia laddove si rivelano idonei a fornire risposte a necessità del tutto peculiari per le quali l'applicazione di standard minimi di protezione rischierebbe di risultare insufficiente. Quindi queste nuove garanzie si aggiungono ma non si sostituiscono agli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri o agli accordi internazionali. Certo, nel caso ad esempio dell'accordo di Gasperi-Gruber è chiaro che fermo restando la sua straordinaria funzione storico-politica, i suoi spazi giuridici vanno sempre più restringendosi, in quanto da una parte abbiamo l'ordinamento italiano che come abbiamo visto che con l'attuazione del pacchetto Alto Adige e del nuovo statuto di autonomia è andato in materia di tutela delle minoranze in Sud Tirolo ben al di là di quanto sarebbe stato internazionalmente obbligato a fare in base all'accordo di Parigi. Dall'altro vi ora il consolidamento di una normativa di base a livello Unione Europea che offre una piattaforma di tutela minima per tutti gli individui appartenenti a minoranze nazionali. Quindi si può dire che il piano nazionale ed il piano europeo comprimono in un certo senso l'accordo De Gasperi-Gruber, ecco, questo in un quadro evolutivo correlato appunto alle novità del Trattato di Lisbona che ho cercato di evidenziare. Sì, ma e soprattutto veramente, insomma, sono stati tanti i dettagli che siamo riusciti ad introdurre questa sera attraverso questa intervista. Vorrebbe indirizzare, siamo ormai in chiusura, un saluto dai microfoni di Brussellando? Ma certamente, un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori e direi che trasmissioni come questa ben testimoniano la sensibilità e l'attenzione del vostro pubblico che mi auguro di non avere eccessivamente tediato. Consigliere, non credo, siamo noi veramente che la ringraziamo della disponibilità, tra l'altro ha accettato questa intervista tra i suoi numerosi impegni, quindi noi la ringraziamo di aver partecipato a rendere ovviamente squisita la penna del diplomatico, perché come sa nell'ambito della nostra trasmissione una volta al mese dedichiamo uno spazio proprio ad uno dei nostri diplomatici. Ricordiamo quindi Il diritto delle minoranze nella nuova Europa, edito da Rubettino. Consigliere, posso strapparle una promessa? Ovviamente, sì. So che ha recentemente pubblicato un altro saggio, quindi magari per la prossima edizione di Brussellando possiamo averla ai nostri microfoni? Affare fatto, mi impegno ben volentieri a partecipare ad una nuova trasmissione. Dato peraltro che, come dicevo, è una trasmissione assolutamente interessante di cui condivido pienamente lo spirito e le finalità e quindi mi permetto di rivolgere a tutti voi dei complimenti davvero sinceri. Consigliere, noi ovviamente la ringraziamo tantissimo, le facciamo i nostri migliori in bocca al lupo per la sua carriera e per tutto quello che continuerà a scrivere e speriamo davvero di risentirla prestissimo. Buonasera. Crepillupo, grazie a voi, buonasera e un saluto a tutti gli amici in ascolto. A prestissimo. Eccoci qui. Allora, è stata una puntata estremamente particolare perché insomma qui ormai siamo abituati a far fronte veramente a tutti gli imprevisti. E allora dedichiamo qualche minuto in più, mi sembra anche giusto, dedichiamo qualche minuto in più, veramente un minuto magari ai suggerimenti di lettura di Fiordaliso, veramente in chiusura, che è qui con noi. Assolutamente mezzo minuto, allora, cioè io vi dirò soltanto che vi raccomando di cominciare a leggere i libri di Lyudmila Ulitskaya, che è una scrittrice russa e che ultimamente viene sempre più riconosciuta come una degna erede della grande letteratura russa e che, di cui ho letto il libro che si chiama Sonia, che è una storia molto carina di cui magari vi racconterò qualcosa la prossima settimana o addirittura sulle pagine del blog. Bene, Fiordalino, noi ti ringraziamo, quindi ringraziamo i nostri ospiti di questa sera, Marco Di Martino, e vi ricordiamo 13 in scena, venerdì 4 e 5 maggio al Centro Culturale di Malbecca, Radio Corneo 97, e al saggio sulle minoranze di Marco Di Ruzza. Ringrazio Dani M. in regia. Grazie a voi. Salutiamo il nostro Giorgetto, che non è qui con noi, quindi che ritroveremo tra due settimane. Ringrazio ovviamente veramente Fiordaliso per la pazienza e la squisita disponibilità. Maridì vi augura un'ottima settimana e soprattutto un ottimo 1° maggio. Buonasera a tutti. E noi salutiamo Maridì.